Mia madre cercava di farmi coraggio, mi diceva di aver pazienza, che il cavaliere... No, no, scusate, senza soffrire un infarto, vabbè, allora, vada, vada. Ho fatto anche delle novene per ottenere la grazia, prima alla Madonna, ma poi, visto che lei da quell'orecchio non ci sentiva, forse perché San Giuseppe, lei, lo aveva conosciuto quando era già un uomo d'età, mi sono rivolto a Santa Rita, che è la santa dei casi disperati. Andavo ogni giorno in chiesa. Il cavaliere era contento di vedermi così devota, anche se lui non andava più in chiesa perché aveva litigato con il figlioccio prete che gli aveva detto che la nostra relazione era uno scandalo per il paese. Le sorelle mandavano i figli grandi in casa a darmi fastidio, sperando che io cedessi e il cavaliere mi mandasse via. Ma io, come quelli allungavano le mani, giù schiaffi a non finire. Quando lo raccontavo al cavaliere, lui rideva, diceva che ero proprio una brava ragazza, però non moriva, non moriva mai. Più gli anni passavano e più lui crepava di salute. Ero persino arrivato a pensare che Santa Rita me lo facesse per dispetto. Poi, come Dio volle, un bel giorno si è ammalato. Non è stato un infarto. Santa Rita in questo ha voluto fare di testa sua. Me l'ha fatto ammalare di polmonite. È stato a letto più di un mese. I parenti, figlioccio prete in testa, gli dicevano che doveva pentirsi e mandarmi via, perché se era stato tanto tempo in peccato mortale, la colpa era mia e di quella ruffiana di mia madre. Povera donna, se la prendevano persino con lei, la mia mamma, ma lui mi ha voluto sempre vicino. All'improvviso è migliorato, finché un bel giorno, per dimostrarmi che stava veramente bene, ha voluto avere uno slancio di gioventù e in quel preciso momento, grazie a Dio, ma soprattutto alle mie ripetute capacità amatorie, il cuore ha fatto il suo dovere ed ha ceduto. Quando è venuto il figlioccio prete, mi ha fulminato con uno sguardo e ha detto che il povero cavaliere lo avevo ammazzato io. Ammettiamolo pure, ma che prove aveva? L'importante era che il povero cavaliere aveva lasciato per sempre questa valle di lacrime. C'è stato un bel funerale. Volevo andarci anch'io, perché ai funerali mi diverto. Ma mia madre non ha voluto. Sono rimasta a casa ed ero tutta contenta. Ormai ero padrona della mia vita, libera! Ne avrei potuti avere di bei giovanotti, forse anche il portalettere. Stavo proprio facendo col pensiero le mie scelte, quando i parenti sono tornati dal funerale e il notaio ci ha chiamati tutti in salotto per leggere il testamento. Il cavaliere lasciava le proprietà solo a me, ma con una clausola. Avrei perso tutto se avessi avuto rapporti con uomini che tutto sommato, diceva proprio così, tutto sommato avessero meno dell'età che aveva lui quando mi ha conosciuto. 60 anni. Per poco non mi sono messo ad urlare. Io, che avevo sognato di potermi finalmente divertire con dei giovanotti, nella mia vita non avrei avuto che dei vecchi. Era una porcheria, una vigliaccata. Non riuscivo più a dormire, non mangiavo più, avevo sempre gli occhi pieni di lacrime. Mia madre cercava di farmi coraggio, mi diceva che vecchio e giovane, gli uomini sono tutti uguali, che dovevo accontentarmi, che dalla vita avevo avuto abbastanza. Lo diceva convinta lei. Ma lei, mio padre, se l'era sposato quando lui aveva 23 anni e prima e dopo di limitazioni non ne aveva avute. Già, mi rispondeva, ma tu hai soldi. E a cosa mi servivano i soldi se non potevo prendermi l'uomo che volevo? Oltretutto, pareva che in paese non ci fossero mai stati tanti bei giovanotti come in quel periodo. Una fioritura. Mia madre, sempre al fianco come un carabiniere, dovevo rigare dritta più di prima, anche perché i parenti mi sorvegliavano. Non uscivo più di casa. Mi mettevo alla finestra e guardavo fuori. Oltretutto, era anche primavera e un reggimento s'era accampato proprio nel boschetto di fronte a noi. Soldati, ragazzi di 20 anni, mica facile rassegnarsi con davanti tanta grazia di Dio. Più il tempo passava, più mi sentivo inutile, sprecata. Non facevo che maledire la clausola e quel vecchio degenerato che l'aveva inventata. Poi un giorno Era una bella giornata di primavera. Sono andata con mia madre in campagna a visitare uno dei poderi che avevo ereditato. Arrivando, quasi ci investe un trattore, guidato da due bei giovanotti, biondi, neri di sole, a dorso nudo. Sembravano statue, e non solo erano belli, ma uno uguale all'altro, si assomigliavano come due gocce d'acqua. Che meraviglia! Ho dovuto chiudere gli occhi per non lasciarmi indurre in tentazione. Poi è arrivato il trattore e ci ha invitato in casa a bere un bicchiere di vino. E così, parlando, ci ha spiegato che quei due ragazzi erano suoi figlioli ed erano loro che lavoravano la nostra terra. L'uno non poteva stare senza l'altro, già da piccoli, ma anche adesso che avevano 30 anni. Si assomigliavano tanto perché erano gemelli, proprio gemelli veri, nati dallo stesso ovulo. In quel momento mi è venuta in mente la clausola. Cosa diceva la clausola? Che non potevo avere rapporti con uomini che, tutto sommato, avessero meno di 60 anni. Allora ho fatto subito il conto. Se a 30 sommi 30, quanto fa? 60, no? Com'è che non ci avevo pensato prima? Con i gemelli avrei avuto le mie soddisfazioni rispettando la clausola. Così, senza dire niente nemmeno a mia madre, sono uscita di corsa e sono andata a raggiungere i gemelli della stalla, e lì ho coronato il sogno della mia vita, ho scoperto l'amore finalmente! Da quel giorno ho cominciato a vivere. Ma adesso i parenti dicono che io ho mancato, vogliono portarmi in tribunale. Ma perché? Io ho rispettato la volontà dell'estinto. Il cavaliere, poveretto, non si era spiegato bene. Quella clausola l'aveva messa per compensarmi della pazienza che avevo avuto. Quel tutto sommato parla chiaro. 60 vuol dire, tutto sommato, che posso avere due uomini di 30 anni. O tre di 20. Magari quattro di 15. Non un uomo, voleva dire il cavaliere, ma tanti e tutti giovani. Che lo impugnino pure il testamento. La clausola parla chiaro. Tutto sommato. No, calma, non va la fine. Allora.